Hashtag autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, eccoci all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. Tanti oggi gli ospiti collegati con noi, il primo è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvatore Margiotta, buon pomeriggio. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Allora, partiamo dal decreto rilancio. Il provvedimento contempla misure a favore del comparto che raccontiamo in questo programma, ci aiuti a riassumerle. Se andiamo direttamente sull'autotrasporto, c'è un incremento del fondo classico dell'autotrasporto, che in genere è di 240 milioni di euro, è stato incrementato di 20 milioni di euro. Non cifre enormi, ma insomma quanto necessario quantomeno per tenere conto delle difficoltà di questo periodo. Inoltre poi la manovra prevede tante altre cose sul trasporto e sulla logistica, 500 milioni per il trasporto pubblico locale, fondi per i trasporti marittimi e per il trasporto aereo, una serie di misure che io ritengo molto positive sulla cosiddetta soft mobility, per evitare che il ricorso ai mezzi privati nelle città possa costituire fonte di inquinamento nei prossimi mesi. La logistica, l'autotrasporto in particolare, in questi mesi hanno tenuto in vita il paese, settori, lavoratori in prima linea tra mille difficoltà, difficoltà che proseguono in questa fase 2. Sì, assolutamente. Guardi, io ho più volte detto in questi giorni, negli incontri con i diversi settori del trasporto e della logistica, che oggettivamente, nonostante le tante difficoltà, credo si possa dire che ha risposto alla grande. Cioè, il paese non è stato abbandonato neanche per un secondo da questo mondo, che è anche a rischio proprio, non solo di salute, ma a rischio di lavorare in perdita, però ha lavorato e nel complesso trasporti e logistica hanno tenuto. Adesso nella nuova fase saranno ulteriormente sollecitati in modo diverso ed è giusto che il governo sia vicino a un settore che tanta importanza ha nel nostro paese, anzi bisognerebbe fare di più e speriamo di fare via via di più anche con i prossimi decreti, ma di questo torneremo a parlare perché appunto ne parleremo nel prossimo decreto. Sul fronte infrastrutturale, con il decreto rilancio, c'è stato il via libera alle procedure per la progettazione dell'alta velocità ferroviaria lungo tre itinerari, due al sud e uno al nord, Margiotta. Nel prossimo decreto imminente, di qui a 10-15 giorni, ci occuperemo di procedure di semplificazione e magari torneremo, mi farà piacere tornare a parlarne con lei. In questo abbiamo individuato queste tre grandi direttrici ferroviarie, la Genova Ventimiglia al nord e due importanti arterie, una longitudinale e una trasversale al sud, la Salerno-Reggio Calabria e la Taranto-Potenza-Battipaglia, che poi va a incrociare la Salerno-Reggio Calabria, in modo tale da connettere il Mezzogiorno finalmente alla linea dell'alta velocità, che segna oggettivamente una discriminante tra parti del territorio ben soddisfatte dai trasporti e parte territorio che non lo sono, perché davvero l'alta velocità ha cambiato il volto del paese, la vita delle persone, e di questo a sud si è visto molto poco. Ecco, di fronte alle grandi opere spesso agli annunci però non sono seguiti i fatti, i tempi che si allungano all'infinito, in alcuni casi i cantieri che restano a metà. Ora però c'è il cosiddetto modello Genova, il nuovo ponte realizzato in meno di 2 anni dal disastro. Margiotta, si dice che il modello Genova potrebbe essere replicato. Certamente lo si può replicare in una serie di vicende. Chi pensa che sia replicabile sempre, ovunque e in ogni circostanza commette un errore, perché andrebbe tra l'altro a detrimento non solo un po' della trasparenza ma anche della concorrenza tra imprese, e noi questo non lo vogliamo. Quindi non il modello Genova su 1000 opere, ma il modello Genova su un certo numero di opere che necessitano di essere sbloccate e disincagliate va sicuramente bene, ma di questo torneremo a parlare perché appunto ne parleremo nel prossimo decreto. Salvatore Margiotta, sottosegretario al MIT, grazie e buona giornata. Grazie a lei. Il crollo del prezzo del petrolio è un elemento di sollievo, per così dire, per l'autotrasporto. Secondo i dati trasmessi dal MISE, ad aprile il prezzo medio alla pompa del gasolio da autotrazione è stato di 1.302 euro per 1.000 litri, cioè ben 183 in meno rispetto a gennaio. Su questi valori per le prese di autotrasporto si calcolano i costi di esercizio fatturati nel corso del mese di maggio. E la caduta del prezzo del greggio condiziona i traffici mondiali. Sulla rotta tra l'Oriente e il Nord Europa, alcune compagnie infatti preferiscono circumnavigare l'Africa piuttosto che passare da Suez. Significa traversate più lunghe di ben 1700 miglia, parliamo di oltre 3000 chilometri, ma alla fine più convenienti rispetto ai costi da sostenere per transitare nel canale, dove le tariffe sono molto alte. A favorire questa tendenza, da una parte appunto il prezzo del greggio più basso, dall'altra la riduzione della domanda di trasporto determinata dal lockdown. Ma per un quadro generale delle conseguenze della pandemia sui traffici mondiali delle merci, siamo in linea con Alessandro Panaro del Centro Studi SRM di Banca Intesa, centro studi che ha varato un osservatorio ad hoc. Buongiorno Panaro. Buongiorno a voi. Allora, finora tutti gli indicatori dicono che la pandemia ha picchiato duro sui traffici mondiali, come peraltro era inevitabile visto il rallentamento dell'economia a livello globale. Per i nostri scali è possibile quantificare il calo? Il calo sarà generalizzato un po' in tutti i porti italiani, salvo qualche realtà che ovviamente, non essendo specializzata sui container, può anche andare su qualche altra tipologia di traffico, però solo sull'import-export via mare containerizzato abbiamo previsto dei differenti scenari, di cui uno prevede una ripartenza entro la fine di giugno e uno prevede la ripartenza dai lockdown, dai vari effetti che hanno avuto i lockdown per la fine di settembre. La prima ipotesi vede un calo del 20%, la seconda ipotesi un calo del 33%, sempre su base annua. I porti italiani chiaramente scontano anche loro quest'ondata che c'è stata di questo fenomeno molto particolare che si sta verificando in maniera molto accentuata in questo periodo, che si chiama blank sailings. Blank sailing di fatto sono le rotte cancellate dai principali operatori container, fanno traffici globali. Perché cancellano la rotta? Perché evidentemente non riescono a riempire il carico della nave e quindi cancellano quel servizio rinviandolo ad un'altra settimana. Questa ondata di blank sailing noi l'abbiamo stimata per ora in 7 milioni di TEU a livello globale, e se dovesse questa proiezione confermarsi per la fine dell'anno, per i nostri porti vorrebbe dire una perdita di circa 90 milioni di tonnellate. Prima con il sottosegretario Margiotta si parlava dello sviluppo dell'alta velocità ferroviaria, più in generale la ripresa, il rilancio dell'intero sistema logistico non possono che passare da un ambizioso piano infrastrutturale, Panaro. Pongo l'attenzione su innanzitutto il fatto che noi abbiamo una serie di opere marittime che sono ferme per motivazioni amministrative e burocratiche di qualsiasi tipo, opere di varia dimensione in giro per l'Italia, di vari porti, vari progetti che sono o partiti e poi sono stati bloccati. Occorrerebbe un monitoraggio immediato per vedere queste opere se possono ripartire nel breve termine e farle rilanciare senza indugio, e poi far partire un altro strumento che secondo noi nel nostro paese molto si è parlato di questo meccanismo, ma poco si è attuato, che è quello dell'intermodalità. Ci sarebbe in realtà anche un altro strumento che sia un po' arenato, che è quello delle zone economiche speciali, che in punto amministrativo hanno terminato il loro iter, però in punto operativo non sono ancora decollate, ma anche lì non sono decollate non perché non si è realizzato qualcosa, ma evidentemente non si riesce ad andare avanti nel definire una forte politica di incentivazione, questa ci vorrebbe e si potrebbe definire nell'immediato, agli investimenti manifatturieri nelle nostre aree, e le ZES quello scopo lì avevano, cioè attirare imprese manifatturiere nelle nostre, in aree definite, concedendo un credito d'imposta, quindi sarebbe anche un meccanismo che già esiste e nulla di nuovo da creare. Se riesce a sbloccare un meccanismo del genere, quelle imprese manifatturiere genererebbero più logistica e più lavoro per i nostri porti. Alessandro Panaro, Centro Studi SRM, grazie e buona giornata. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. Ora parliamo di strade, o meglio di manutenzioni. Secondo Siteb, che è l'associazione delle imprese del settore, durante il lockdown gli interventi si sono dimezzati. Michele Turrini, presidente di Siteb, cosa è successo? Sì, noi ci eravamo illusi che da un buon 2019, perché aveva fatto segnare un 15% dei consumi del conglomerato e quindi vuol dire che le manutenzioni erano riprese. Purtroppo il 2020, dopo un bimestre che era partito nuovamente con segno positivo del più 23%, a marzo abbiamo avuto un meno 46% crollo dei consumi e aprile sarà probabilmente lo stesso. Tuttavia le strade sono state considerate essenziali e quindi è stato uno di quei settori che il lockdown ha toccato forse meno, ma si vedono comunque le conseguenze. Perché? Beh, innanzitutto perché le imprese non erano preparate, trovare i DPI, dispositivi di sicurezza non è stato facile per le imprese, quindi mascherine, guanti e quant'altro necessario, ma poi soprattutto perché le pubbliche amministrazioni si sono un po' impallate dovendo ricorrere allo smart working e probabilmente il pubblico impiego non era così preparato a questo cambiamento. In mezzo si mette anche questo codice appalti farraginoso e tremendamente burocratico e complicato, per cui ci siamo trovati con dei lavori anche se non all'interno del lockdown, ma praticamente bloccati. Quindi potremmo dire si è persa l'occasione di intervenire sulle strade proprio in un momento in cui il traffico era notevolmente ridotto, se non addirittura nullo. Sì, è stata una tripla chance, noi diciamo non sfruttata. Una, come giustamente lei ha fatto notare, il fatto che le strade erano sgombre e quindi si poteva fare con efficienza dei lavori. Il secondo era che è stato un febbraio, marzo, con il sole, con pochissima pioggia, e questo ha molta influenza anche sull'efficienza dei lavori. Il terzo aspetto è il crollo dei prezzi del bitume, che hanno fatto calare sensibilmente quelli che erano i prezzi del bitume e dei combustibili, e quindi anche con eventuali risparmi sui lavori. Michele Turrini, presidente di Siteb, grazie e buona giornata anche a lei. Grazie a voi e saluto a tutti. Il Parlamento europeo ha approvato la proroga di alcune certificazioni in scadenza. La proroga è di 6 mesi, tra queste la carta di qualificazione del conducente e le revisioni dei mezzi pesanti. Ennesimo assalto ad un tir in Puglia, è accaduto nei giorni scorsi sulla 16 nei pressi di Cerignola. I banditi armati hanno affiancato un mezzo pesante che trasportava merci varie, costringendo l'autista a fermarsi e salire su un'auto che è subito ripartita. L'uomo è stato liberato un'ora dopo nelle campagne di Stornara, a pochi chilometri di distanza. I carabinieri hanno ritrovato il tir abbandonato e all'interno di un magazzino situato nei pressi l'area furtiva. Indagini ora sono in corso per identificare i banditi. Non abbiamo più tempo a disposizione, oggi dobbiamo correre, ci risentiamo con questo programma lunedì alle 13.45, ora gli aggiornamenti delle 14 da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.